Ad alta voce, Massimo Popolizio legge I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello. Pregati da Flaminio Salvo, che dagli affari di banco e da tanti altri negozi a cui attendeva non aveva mai un momento libero, Ignazio Capolino, già suo cognato, e Ninì De Vincentis, giovane amico di casa, scendevano il giorno dopo in carrozza da Girgenti a Balsania per dare le opportune disposizioni per la villeggiatura, incarico graditissimo all'uno e all'altro, per due diverse, anzi opposte, ragioni. I carri, sovraccarichi di suppellettile, erano partiti da un pezzo da Girgenti e a quell'ora dovevano essere già arrivati a Balsania. Il discorso tra i due in quella carrozza padronale del Salvo era caduto sulle proposte nozze di donna Adelaide, sorella di Don Flaminio, con il principe di Laurentano. «No, no, è troppo», diceva sogghignando Capolino. «Povera Adelaide, è troppo, dopo 50 anni di attesa, diciamo la verità». Ninì De Vincentis batteva di continuo le palpebre, come per contenere nei begli occhi neri a mandorla il dispiacere per quella derisione. Nello stesso tempo, con l'atteggiamento del volto pallido, affilato, avrebbe voluto mostrare l'intenzione almeno di un sorriso per regger la celia e rispondere in qualche maniera all'ilarità, pur così smodata e sconveniente, di Capolino. «Già, nozze, per modo di dire», seguitò questi implacabile, lì che nessuno li sentiva. «Ninì, il buon Ninì, pasta d'angelo, era men che nessuno. Per modo di dire, perché, lasciamo andare, sarà bene, sarà male. La legge è legge, caro mio, e le opinioni politiche e religiose, se contano, contano poco di fronte a lei. Ora, il principe, lo sai, condizio sine qua non, vuole che il matrimonio sia soltanto religioso, non ammette l'altro per le sue idee. Dunque, matrimonio senza effetti legali, mi spiego? Sarà una cosa bella, gustosa, anche coraggiosa, non dico di no. Ma quella povera Adelaide, e via». E Capolino si mise a ghignar di nuovo, come se nel suo concetto Adelaide Salvo non fosse la donna più adatta a quell'eroismo di nuovo genere che si richiedeva da lei, a quella sfida coraggiosa alla società civilmente costituita. Ninì De Vincentis taceva e continuava a sbattere gli occhi, ancora con quel sorriso afflitto, rassegnato sulle labbra, sperando che il suo silenzio impacciasse la foga derisoria del compagno. «Ma che? Ci sguazzava, Capolino! Ma perché lo fa?» riprese, ponendosi davanti la sposa zitellona. «Per entrare nel mondo con tutti i diritti da signora, ma io direi che ne esce piuttosto. Va a rinchiudersi a Colinvetra e monagazione sotto tutti i rispetti. Mi spiego? Il principe a buon conto, a 65 anni sonati». Si interruppe a un atto del De Vincentis. Caro mio, lo so, tu fai professione d'angelo, ma qui si tratta di matrimonio e ci si deve pur pensare all'età. Bis, lo dicono anche i sacerdoti. Dunque, mondo niente, diventa principessa, principessa di Laurentano, dirò regina di Colinvetra. Sì, per me, per te, per tutti noi che riteniamo il matrimonio religioso non pur superiore al civile, ma il solo, il vero che valga, quello che bastando davanti a Dio dovrebbe strabastare per gli uomini. Tutti gli altri però non hanno mica l'obbligo di riconoscerlo e di rispettare lei fuori di Colinvetra quale principessa di Laurentano, e Lando, per esempio, il figlio del primo letto, di rispettarla quale seconda madre. E che resta allora? La ricchezza? Non lo fa per questo certamente, ricca com'è di casa sua. Se lo facesse per questo, povera Adelaide, ho una gran paura che le andrebbe a finire come me. E qui rise di nuovo Capolino, ma come una lumaca nel fuoco. all'anima candida di Ninì De Vincentis non balenava neppure da lontano il sospetto che tutta quella creatura di me nelle Daiade potesse avere una ragione ricondita e inconfessabile. Come non credeva che qualcuno mai si fosse potuto accorgere del suo timido, puro e ardentissimo amore per Dianella Salvo, la figlia ora inferma di Don Flaminio. Così non s'era mai accorto prima del vano, ostinato assedio di Capolino a Donna Adelaide, né credeva ora minimamente alle chiacchiere maligne sul conto di quella cara signora Nicoletta, seconda moglie di Capolino. Non sapeva scoprir secondi fini in nessuno, e meno che mai poi quello del denaro. Era, su questo punto, come un cieco. Da parecchi anni, dopo la morte dei genitori, si lasciava spogliare, insieme col fratello maggiore Vincente, da un amministratore ladro chiamato Iacopaccia, il quale aveva saputo arruffar così bene la matassa degli affari che il povero Ninì, avendogliene tempo addietro domandato conto, per poco non ne aveva avuto il capogiro. E s'era dovuto recare una prima volta al Banco del Salvo per un prestito di denaro su cambiali. Parecchie altre volte era poi dovuto ritornare allo stesso banco e alla fine, per consiglio dell'amministratore, aveva fatto al Salvo la proposta di saldare il debito con la cessione della magnifica tenuta di Primo Sole, proposta che il Salvo aveva subito accettata, acquistandosi per giunta la più fervida gratitudine di Ninì, a cui naturalmente non era passato neppure per il capo il sospetto di un accordo segreto tra il Pacia, suo amministratore, e il banchiere. Amava Dianella Salvo, e in Don Flaminio non sapeva veder altro che il padre di lei. Con il Capolino e il De Vincentis, la vettura, poco oltre la seta, entrò nel feudo dallo stradone. Il cancello era rovinato. Una sola banda, tutta arrugginita, era in piedi, fissa a un pilastro. L'altro pilastro era da gran tempo diroccato. La strada carrozzabile, che attraversava quest'altra parte del feudo, ceduta anch'essa a mezzadria, era, come tutto il resto, in abbandono, irta di cespugli, tra i quali si vedevano i solchi lasciati di recente dai carri con la suppellettile. Ninì De Vincentis guardò tutto intorno quella desolazione, senza dir nulla, ma seguitò a parlar per sé e per lui, Capolino Ignazio, che disse: «La maladuccia avrà poco da stare allegra qua, non da pare!» «È molto triste», sospirò Ninì. «Non dico soltanto per il luogo», soggiunse Capolino, «anche per quelli che vi stanno. Due tomi, caro mio, e adesso vedrai. Ma questa villeggiatura si farà più per Donna Adelaide che non ci viene che per Dianella. E Dianella, che forse lo sospetta, la soffrirà in pace, al solito, per amore della zia. Flaminio è un grand'uomo, non c'è che dire». «L'aria però è buona», osservò il De Vincentis, per attenuare almeno un po' l'aspro giudizio del compagno sul Salvo. «Ottima, ottima», sbuffò Capolino, il quale, da questo punto, si chiuse in un silenzio accigliato fino all'arrivo della villa. I carri erano giunti da poco, insieme con la giardiniera, che aveva portato due servi del Salvo, il cuoco, una cameriera e due tappezzieri. Donna Sara Alaimo, sul pianerottolo in cima alla scala, batteva le mani, festante, a quelle quattro montagne di bella roba sui carri. «Presto, scaricate!» ordinò ai servi e ai carrettieri, Capolino, smontando dalla vettura e agitando la mazzettina. Poi, salita in fretta alla scala, domandò a Donna Sara: «E Don Cosmo?» Ed entrò, senza aspettare risposta, nel vecchio cascinone con Ninì De Vincentis, che gli andava dietro come un cagnolino sperduto. «Scaricate!» ripeté uno dei servi, rifacendo tra le risate dei compagni il tono di voce e il gesto imperioso di quel padrone improvvisato. Don Cosmo s'aggirava come una mosca senza capo per le stanze lavate di fresco da Donna Sara, la quale, fin dal giorno avanti, appena saputo la notizia della prossima venuta del Salvo, si era sentita tutta allargare dalla contentezza e subito messa in grande affare, aveva anche persuaso a Don Cosimo che sarebbe stato bene sgombrare questa e quella stanza dalla decrepita mobilia, perché gli ospiti ricconi non vedessero tutta quella miseria in una casa di principi. Ma no, ma no, no, no, aveva cominciato subito a strillare Don Cosimo dalla sua stanza, udendo il fracasso di quei poveri vecchi mobili strappati a forza dai loro posti e trascinati. E donna Sara, stupefatta da quella protesta, no, ma come no, se me lo ha detto lei. Perché avveniva sempre così. Donna Sara parlava, e Don Cosimo dal canto suo pensava, facendo finta di tanto in tanto di udire, con qualche rapido cenno del capo, quando più lo pungeva il fastidio del suono di quelle interminabili parole. «Don Cosimo onoratissimo!» esclamò Capolino, scoprendolo alla fine, dopo aver girato anche lui di qua e di là per trovarlo. «In gran confusione, e poi bacco!» «No, s'affrettò a rispondere Don Cosimo, per troncar subito le cerimonie, con le nari arricciate per il lezzo acre di muffa che ammorbava il cascinone, umido ancora per l'insolita lavatura. Cercavo una stanza appartata dove starmene senza recare incomodo. Capolino fece per protestare, ma Don Cosimo lo fermò a tempo. Lasciatemi dire, comodo io, comodi loro, va bene così. In capo, tenete in capo. Alzò una mano, così dicendo, a accarezzare l'elegantissima barbetta nera di Ninì De Vincentis. Ti sei fatto un bel ragazzo, figliuolo mio, e così cresciuto mi fai accorgere di quanto sono vecchio. Tuo fratello Vincente? Sembra arabista? Sembra, rispose Ninì, sorridendo. Ah, quei 14 volumi d'arabo manoscritti dovrebbero pesare come tanti macigni nel mondo di là, sull'anima del conte Lucchesi Valli che volle farne dono morendo alla nostra biblioteca per rovinare codesto povero figliuolo. Capolino intanto presso la finestra si industriava a farsi specchio della vetrata aperta e si lisciava sulle gote le fedine già un po' brizzolate. Bello non era davvero, ma aveva occhi fervidi e penetranti che gli accendevano simpaticamente tutto il volto bruno e magro. Sentendo cadere il discorso tra il Laurentano e Ninì, finse di star lì a determinare i punti cardinali della villa. «Esposizione a mezzogiorno, è vero? Oh, se l'era scelta per lei questa camera, Don Cosimo?» «Questa o un'altra», rispose Laurentano. «Camere ce n'è d'avanzo, vedrete, ma tutte così, vecchie e in pessimo stato. Uscendo di qua, abbiamo questo lungo corridoio che divide in due parti il casermone. Le camere da questa parte sono a mezzogiorno, quelle di là a tramontana. La sala d'ingresso interrompe di qua e di là il corridoio e divide la villa in due quartieri uguali, salvo che di qua, in fondo, abbiamo un camerone, il cui uscio è alle mie spalle. Di là, invece, abbiamo una terrazza. È semplicissimo!» «Ah, bene, bene, bene!» approvò Capolino. «E dunque, abbiamo anche un camerone!» Don Cosimo sorrise, negando col capo. Poi spiegò che cosa era il camerone e come ridotto e da chi custodito. «Oh, per l'amor di Dio!» esclamò Capolino. «Sarebbe meglio perciò, concluse Don Cosimo, che disponeste l'abitazione nel quartiere di là, libero dal tutto. Io m'ero scelto apposta questa camera.» Capolino approvò di nuovo e, poiché i servi erano già venuti su con il primo carico, s'avviò con Ninì per l'altro quartiere. Don Cosimo rimase in quella camera, dove con l'aiuto di donna Sara trasportò tutti i suoi libracci. La povera casiera, sentendo quanto pesava tutta quella erudizione, non riusciva a capacitarsi come mai Don Cosimo, che se l'era messa in corpo, potesse vivere così sulle nuvole. Don Cosimo, ancora con le nari arricciate, non riusciva a capacitarsi invece perché quella mattina ci fosse tutto quel puzzo di umido. Ma forse non distingueva bene tra il puzzo e il fastidio che gli veniva dal pensare che orora, per l'arrivo degli ospiti, tutte le sue antiche abitudini sarebbero state trastornate. E chissà per quanto tempo. Di lì a poco, Capolino ritornò, lasciando solo di là il De Vincentis, che si era dimostrato molto più adatto di lui alla bisogna. Così almeno dichiarò. In verità, veniva per porre a effetto una delle ragioni per cui si era volentieri accollato l'incarico del Salvo, quella cioè di scoprir l'umore di Don Cosmo circa il matrimonio del fratello, o di tastargli il polso su quell'argomento, come egli diceva tra sé. Non già che sperasse che ormai quelle nozze potessero andare a monte, ma conoscendo la diversità, anzi l'opposizione inconciliabile tra i due modi di pensare e di sentire del Salvo e di Don Cosmo, gli piaceva supporre che qualche attrito, qualche urto potesse nascere dal soggiorno di quello a Balsamia. Era così astratta e solitaria l'anima di Don Cosmo che la vita comune non riusciva a penetrargli nella coscienza con tutti quegli infingimenti e quelle arti e quelle persuasioni che spontaneamente la trasfigurano agli altri. E spesso perciò, dalla gelida vetta della sua stoica noncuranza, lasciava precipitar come valanghe le verità più crude. Quanti libri! Esclamò Capolino entrando. Già, e lei studia sempre. Romagnosi, Rosmini, Hegel, Kant. A ogni nome letto sul dorso di quei libri sgranava gli occhi, come se vi ponesse punti esclamativi sempre più sperticati. Poesie, sospirò Don Cosmo con un gesto vago della mano, socchiudendo gli occhi. Come? Don Cosmo, non capisco. Filosofia, vorrà dire. E chiamatela come volete, rispose Laurentano con un nuovo sospiro. Da studiare poco o niente, c'è da godere, sì, della grandezza dell'ingegnaccio umano che su un'ipotesi, cioè su una nuvola, fabbrica castelli. Tutti questi vari sistemi di filosofia, caro avvocato, che me paiono, e sapete che me paiono? Chiese, chiesine, chiesacce di vario stile, campate in aria. Già, cercò di interrompere Capolino, grattandosi con un dito la nuca. Ma Don Cosmo, che non parlava mai, toccato giusto su quell'unico tasto sensibile, non seppe trattenersi. Soffiate, ruzzola tutto, perché dentro non c'è niente. Il vuoto, tanto più opprimente, quanto più alto e solenne l'edificio. Capolino s'era tutto raccolto in sé. Per raccapezzarsi, incitato dalla passione con cui Don Cosmo parlava, a rispondere, a rintuzzare, e aspettava, sospeso, una pausa, e avvenuta, proruppe. Però... No, niente, lasciamo stare, troncò subito Don Cosmo, posandogli una mano sulla spalla. Minghionerie, caro avvocato. Don Cosmo era distratto nell'ammirazione di quella sala, resa così d'improvviso irriconoscibile. «Prodigio d'Atlante!» esclamava battendo una mano sulla spalla a Vinini De Vincentis. «Mi pare d'essere a Colimbetra!» Subito Capolino colse la palla al balzo e disse «Lei non ci va da anni a Colimbetra, eh?» E Don Cosmo stette un po' a pensare. «Da circa 10!» e restò sospeso senza aggiungere altro. Ma Capolino, fissando il gancio per tirarlo a parlare, «Da quando vi morì sua cognata, è vero?» «Già», rispose asciutto il Laurentano. E Capolino sospirò, «Donna Teresa Mondalto, che dama, che lutto, vera donna di stampo antico!» E dopo una pausa grave, dissimulato rimpianto, un nuovo sospiro d'altro genere. «Ma cosa bella mortal passa e non dura!» Donna Sara Alaimo, la fasiera, che si trovava in quel punto a servire in tavola per rialzarsi agli occhi degli ospiti della sua indegna condizione di serva, fu tentata di interloquire e sospirò timidamente con un languido risolino. «Metastasio!» Ninì si voltò a guardarla, stupito. Don Cosmo accomodò la bocca per emettere un suo riso speciale, fatto di tre. Oh, oh, oh, pieni, cupi e profondi. Ninì viveva veramente in cielo, in un cielo illuminato da un suo sole particolare, lì lì per sorgere, non sorto ancora e che forse non sarebbe sorto mai. Lo lasciava lì, dietro le montagne dure della realtà, e preferiva rimanere nel lume roseo e vano di una perpetua aurora, perché il sole, sorgendo, non dovesse poi tramontare e perché le ombre inevitabili rimanessero tenui e quasi diafane. Già gli si era affacciato il dubbio che il salvo ormai non avrebbe accolto bene la sua richiesta di nozze, se egli si fosse mai spinto a fargliela. Ma aveva sempre rifuggito dall'accogliere e ponderare questo dubbio per non turbare il purissimo sogno di tutta la sua vita. E non perché quel dubbio gli legasse in spiedi di volta, ma perché chiaramente gli mancava il coraggio di tradurre in atto un ideale così altamente vagheggiato, che quasi temeva si potesse guastare al minimo urto della realtà. Non si era mai risoluto, non a fare la richiesta, ma nemmeno a dichiararsi apertamente con Dianella Salvo. Ora, il sospetto che gli potesse farlo per la dote della ragazza che avrebbe rimesso in sesto le sue finanze, gli cagionò un acutissimo cordoglio. Gli avvelenò la gioia di quel servigio reso per amore e che invece poteva parere interessato. E, come se tutto a un tratto il suo sole avesse dato un tracollo, tutto improvvisamente gli si oscurò. E quando le stanze furono messe in ordine ed egli, con la gola stretta d'angoscia, fece un ultimo giro d'ispezione, non seppe posare, come s'era proposto, sul guanciale del letto di Dianella il bacio dell'arrivo, perché ella, senza saperlo, ve lo trovasse la sera andando a dormire. Don Cosmo e Capolino, piccoli, neri, sotto un cielo altissimo, cupamente infocato dal tramonto, s'erano messi intanto a passeggiare innanzi alla vecchia villa per il lungo, dritto viale che fa quasi orlo a Manca, al Ciglio, donde sprofonda ripido un burrone ampio e profondo, detto il Vallone. Pareva che lì l'altopiano, per una convulsione tellurica, si fosse spaccato innanzi al mare. La tenuta di Valsania restava di qua, scendeva con gli ultimi ulivi in quel burrone, gola d'ombra nel cui fondo sornuotano i gelsi, i carubi, gli aranci, i limoni lieti di un rivo d'acqua che vi scorre da una vena aperta laggiù, in fondo nella grotta misteriosa di San Calogero. A questo punto Capolino si fermò, scorgendo in fondo al viale un uomo che veniva loro incontro di corsa, gesticolando. «Chi è là?» domandò fermandosi accigliato. Era Marco Preola, tutto impolverato e arrangolato, in sudore, con le calze ricadute sulle scarpacce rotte, stanco morto. «Ci siamo! Ci siamo!» si mise a gridare, appressandosi. «È arrivato!» «Favoriti?» domandò Capolino. «Se signore!» riprese il Preola. «Per le elezioni! Non c'è più dubbio! Vengo de corsa apposta da Gercendi!» Si tolse il cappellaccio roccioso e con un fazzoletto sudicio s'asciugò il sudore che gli grondava dal capo tignoso. «Mio nepote!» domandò frastornato e stupito Don Cosmo. Subito Capolino, con aria rammaricata, prese a informarlo e delle dimissioni del fazzello e delle premure che si facevano su lui perché accettasse la candidatura e delle voci che correvano a Girgenti su questa venuta inattesa di Roberto Auri. Voci, voci a cui egli, Capolino, non voleva prestar fede per due ragioni. Prima, per il rispetto che aveva per Lauriti, rispetto che non gli consentiva di supporre che, non chiamato, venisse a contendere un posto che il fazzello lasciava volontariamente. Mentre Capolino e il Preola discutevano tra loro, gli occhi, il naso, la bocca di Don Cosmo facevano una mimica speciosissima. Si strizzavano, s'arricciavano, si storcevano. vivendo in quell'esilio, assorto sempre in pensieri eterni, con gli occhi alle stelle, al mare di sotto o alla campagna solitaria intorno, ora, così investito da tutte quelle notizie piccine, si sentiva come pinzato da tanti insettucci fastidiosi. Gesù, pare impossibile. Quante mignonerie! Dal fondo del viale giunse in quella un rumore di sonaglioli. I tre, che s'erano accostati alla villa conversando, si voltarono a guardare. Capolino chiamò. Nenè! Nenè! Ecco l'avettore! Arrivano!